Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E benvenuti anche a questa nuova puntata dei Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che ci parla oggi di pedagogia, di scienza dell'educazione, di rapportarsi con i ragazzi. Una materia che inevitabilmente si affronta quando si parla del pioniere di Rodari del dopoguerra e del modo con cui la sinistra, in particolare il PC, voleva parlare alle giovani generazioni. Questo lavoro di ricostruzione culturale, dopo tanti anni di fascismo e 5 anni di violentissima guerra, veniva affidato, ieri come oggi, alle donne in quello che chiamiamo lavoro di cura. Un lavoro determinante, ma che ieri come oggi ha ben poco riconoscimento da parte della società, o comunque non un riconoscimento sufficiente. E quindi, parlando di lavoro di cura, di rapporto con i giovani, di educazione alla democrazia e alla convivenza, parliamo anche di Dina Rinaldi. Non è un caso che nel Pioniere è così fondamentale la presenza dell'Unione Donne Italiane, organizzazione femminile del Partito Comunista Italiano, che investì molte energie in questa direzione. Ecco, allora proprio con l'UDI ci rapportiamo, perché Morena ha intervistato Ilaria Scalmani dell'Udi Nazionale, che ci dà sì un ritratto della Dina Rinaldi, ma anche ci narra i rapporti che intercorsero tra il Pioniere e l'Udi. Cominciamo allora con l'intervista di Morena Moretti a Ilaria Scalmani, che parte proprio dall'incontro dell'Associazione Pionieri Italiani e dell'Unione Donne Italiane. Nel momento in cui l'ADI decide di fare questo giornale dedicato appunto ai più giovani, questo giornalino per ragazzi, si appoggia subito all'UDI, sia per la diffusione del giornale stesso, ma dai primissimi anni 50 anche per l'amministrazione del giornale. Troviamo infatti nei bollettini dell'Unione Donne Italiane la comunicazione che da pochi mesi, e siamo nel 52, l'amministrazione Gino Donne si occuperà anche della gestione del Pioniere. E infatti da quel momento che sia nei bollettini sia nei materiali anche presenti nell'archivio centrale dell'UDI c'è una forte sollecitazione alle donne dell'UDI a diffondere il Pioniere e a farlo leggere ai propri figli, ragazzi, bambini, i conoscenti. Quindi l'associazione sin da subito si occupò di questo giornale, era un giornale dei ragazzi, un po' diciamo che questo ruolo delle donne rispetto all'educazione ha in qualche modo aiutato questo giornale a vivere e a crescere. L'educazione, comunque il tema infanzia è stato per l'UDI fin dal dopoguerra un tema centrale per l'associazione, non per niente inerente a questo tema si sviluppa tutta una serie di azioni che l'UDI intraprende sia a livello scolastico ma anche per gli aiuti sanitari. Quindi l'educazione è senz'altro un tema che a lui sta molto a cuore. Ma la particolarità è che la direttrice del giornale, soprattutto dal 53, da quando Gianni Rodari se ne deve andare dalla direzione appunto del Pioniere perché è chiamata all'avanguardia, subentra Dina Rinaldi. Allora, Dina Rinaldi chi è? È una donna fantastica perché in realtà lei è stata anche la direttora di Noi Donne. Arriva al giornale, arriva fin dall'inizio con Rodari, lavorano per un po' insieme, Giordani viene chiamato all'Avanguardia e quindi rimane Larina Rialdi, che forte dell'esperienza che ha avuto nel giornale Noi Donne e soprattutto all'interno dell'UDI, applica quella stessa metodologia che ha imparato nel corso degli anni anche nel giornale Il Pioniere, che sarà poi la fortuna stessa del giornale. In particolare una delle caratteristiche che crea la Rinaldi è quella nel 54 di fare l'ufficio postale. È semplicemente di prima acchito una rubrica fatta per ragazzi, per i lettori, in cui lei chiede direttamente il parere ai giovani lettori, quali sono le cose che gli piacciono più del giornale, quali sono i miglioramenti che è possibile fare, che cosa gli piacerebbe leggere. Questo è sicuramente un modo di andare a indagare nei lettori, cioè avere il polso della situazione del giornale. Anche a livello sociale, perché poi questi bambini erano bambini ancora abbastanza poveri, lei proprio da una rubrica, che sono proprio bambini a scrivere, perché Il Pioniere poi è un giornale dedicato a una fascia di età che va da 5-6 anni, dai 6 anni ai 10-11, ecco. No? Esatto, non solo dà la parola direttamente a loro, ma nello stesso tempo lei crea un particolare legame, perché vuole anche cercare di capire quali sono i problemi di questi bambini, di questi ragazzi, quali sono le aspirazioni, quali sono i sogni. Cioè lei non fa solo una ricerca di marketing per sapere come deve migliorare il giornale, ma cerca di capire che tipo di pubblico legge, quali sono i problemi, quali sono le aspettative, che tipo di tessuto sociale, e in base alle risposte che ha da questi ragazzi indirizza la redazione anche l'approfondimento di alcune tematiche. Questo crea un legame molto stretto, si legge infatti nelle sue lettere che riceve questo attaccamento che hanno i lettori con la direttrice del giornale, è come se la conoscessero di persona, chiedono consigli, chiedono informazioni, lei dispensa consigli stando sempre nella linea educativa che aveva il giornale e anche l'associazione Pionieri, cioè era quello di guidare i ragazzi a risolvere i problemi usando sostanzialmente il loro intelletto, cioè lei gli dà una spinta, gli dà una nozione, gli dà un'informazione, ma poi spinge i ragazzi stessi a cercare il confronto con magari il padre, la madre, con i compagni, o comunque a cercare loro la soluzione. Lei dà l'input, ma quello che vuole è che loro riescano a costruirsi lo strumento da soli, a metterlo a punto. In questo Pioniere, anche quello all'interno di Noi Donne, c'è naturalmente anche una ricerca per portare a una sorta di parità anche di genere o emancipazione femminile, come si diceva magari un tempo, ovvero le differenze vengono in qualche modo mitigate e quindi sono fumetti che sono uguali per tutti i bambini e ci sono anche delle rubriche e un approccio proprio al tema, diciamo, di genere molto moderno. Sì, assolutamente sì, la scelta è sempre quella di non fare alcun tipo di distinzione tra ragazzi e ragazze, tra lettrice e lettrice solo per il sesso. È ovvio che poi c'erano dei problemi che riguardavano più una femminuccia piuttosto che un maschietto. L'idea però è quella sempre di rendere un'educazione paritaria, perché quella era comunque la linea che aveva sia l'associazione Il Pioniere che sia il giornale. È interessante però che da donna dell'UDI, devo dire, la Dina Rinaldi in una rubrica su Ufficio Postale fa un chiaro riferimento a Virginia Woolf, in quanto scrive appunto alle bambine che quello era un luogo dove dedicato a loro, in cui potevano considerare la loro stanza privata. Quindi sono proprio parole che fanno un netto riferimento alla Virginia Woolf. Ilaria, perché l'esperienza del Pioniere poi si conclude? Allora, si conclude nell'UDI, in particolare troviamo nel 57 un documento della direzione dell'UDI, dell'amministrazione, in una riunione in cui c'è la segreteria dell'UDI e dell'ATI, in cui è chiaro, evidente che l'economia del giornale non va bene e comunque in quel periodo era difficile anche per l'UDI capire quali erano gli introiti di Noi Donne e del giornale Il Pioniere, quindi avevano anche bisogno di staccare le due realtà. Si prende quindi la decisione che da quel momento in poi la gestione, soprattutto economica e amministrativa, del giornalino sarà tutta al carico del pieniere, quindi da quel momento dell'associazione pieniere, quindi da quel momento in poi si ha un allontanamento un Sì, dal pochettino. 1970 di fatto poi il pioniere finisce con il Sì, in nonno, di realtà fatto. l'Udi prende distanze con l'Indipendente nel 1957, poi viene ripubblicata all'interno del giornale Le Donne, ma una ripubblicazione di alcuni dei fumetti che già erano pubblicati. Quindi il periodo che va dal 67 al 70 con la pubblicazione in Noi Donne è tutto rieditato? Per lo più sì, i fumetti si sono quelli più già rieditati. Sì. Comunque è una consistenza minore, si tratta di poche pagine, Sì. mentre il giornalino era chiaramente più Corposo, grande. certo. Ti volevo chiedere ancora questo, sempre su Dina Rinaldi, visto che su questa grande donna si trova poco, come spesso accade per queste personalità del passato che hanno avuto grandi ruoli, ma che magari hanno fatto una storia, diciamo, parallela, quindi sono un po' dimenticate. Ecco, qualche altro dato su di lei, sulla sua storia, sulla sua biografia, se tu sei a conoscenza di. Su di lei si trova molto poco, è stata fatta sì, una ricerca da una docente di Firenze appunto sul ruolo di Dina Rinaldi all'interno del pioniere. C'è un archivio che dalle carte sembra che sia conservato in una casa privata dei figli. Altro di lei effettivamente non solo non si sa, ma si trova anche poco. Anche le stesse fotografie della Rinaldi, ne abbiamo trovata una perché era stata pubblicata nel bollettino dell'Unione Donne Italiane. Ma è difficile anche trovare informazioni su di lei o fotografie stesse. Quindi rimane comunque una figura ancora, diciamo, volendo da indagare. Assolutamente sì, perché invece è una figura interessantissima e di un grande spessore culturale. Sì, credo che tra l'altro abbia dato una grande mano a Rodari nei primi anni del Pioniere e anche poi, in fondo, nei primi anni della carriera di Gianni Rodari. Devo dire che da quello che si legge, dalle testimonianze, il lavoro del pioniere era veramente un gran lavoro di squadra, grazie sicuramente alla scelta che ha fatto Rodari di avere tutti nello stesso livello, anche nella stessa stanza, a lavorare insieme. Quindi di sicuro era un lavoro di gruppo che ha portato a grandi risultati. È inevitabile pensare che Rodari abbia aiutato la Rinaldi e E viceversa. viceversa, certo. Tornando a Dina Rinaldi, siamo nel 1960, quando la direttrice del Pioniere con lo scrittore Leone Sbrana pubblica Racconti nuovi, gli scrittori italiani per i nuovi lettori, i ragazzi, i giovani di oggi. Il sottotitolo ben spiega l'ambizioso progetto della Rinaldi, costruire una letteratura per giovanissimi prodotta dalle migliori firme della letteratura italiana. Sarà capace, ad esempio, il Moravia degli Indifferenti scrivere un racconto apprezzabile anche dai ragazzi? L'operazione riesce, il libro va a ruba e subito si pensa ad una ristampa. Viene ipotizzata addirittura un'operazione equivalente a livello internazionale con le migliori firme conclamate nel mondo. Progetto che, ahimè, non vedrà mai la luce. Su questi racconti nuovi sentiamo il servizio di Morena Moretti. Il libro che ho tra le mani si intitola Racconti Nuovi. È un libro rilegato, edito da Editori Riuniti e Pioniere, su indorso una scritta in oro, semplicemente Racconti. Gli scrittori italiani per i nuovi lettori, i ragazzi e i giovani d'oggi, questo è il sottotitolo, a cura di Dina Rinaldi e Leone Sbrana. Anno di pubblicazione 1960. Di Dina Rinaldi sappiamo, era all'epoca la direttrice del Pioniere. Ma Leone Sbrana chi era? Leone Sbrana era uno scrittore impegnato politicamente, militante iscritto al Partito Comunista Italiano, era impegnato sul piano culturale e fu segretario del Premio Viareggio fino al 1963. Lui si batteva per l'indipendenza culturale proprio del Premio Viareggio. Amico di Dina Rinaldi, insieme a lei pensano a un progetto molto interessante e anche direi avveniristico per i loro piccoli lettori, bambini e ragazzi che in quel momento erano appunto i fruitori del giornalino illustrato Il Pioniere. Che cosa fa Dina Rinaldi? Interpella i migliori scrittori dell'epoca per chiedere loro un racconto inedito dedicato ai ragazzi. Scrive Dina Rinaldi in un'introduzione del libro: se chiedete a uno scrittore di raccontare per i ragazzi un episodio, un ricordo della sua giovinezza, o di parlare ad essi delle vicende, dei sentimenti degli uomini, lì per lì, meravigliato e forse anche dubbioso, vi dirà: un racconto per i giovani? No, non li ho mai scritti. E quanto di più difficile si possa fare. È vero, continua la Rinaldi, scrivere per i ragazzi è una cosa difficile e seria. Occorrono numerose particolari doti, semplicità, fantasia, gusto e ricchezza dei sentimenti, amore per l'uomo e la verità. Queste doti sono presenti nelle opere dei nostri migliori scrittori, ma purtroppo si trasmettono di rado nelle letture infantili, perché non è costume della nostra scuola e della nostra società aiutare i giovani a conoscere i narratori d'oggi, mentre voi, come altri, avete il diritto di conoscere ed apprezzare ciò che di meglio esprime la lettura della società in cui vivete. Dina Rinaldi e Leone Sbrana contattano decine di scrittori importanti e chiedono loro un racconto inedito per questo testo. Un testo che verrà pubblicato a dicembre e che diventerà una strenna natalizia. Alcuni degli scrittori che accettarono questa proposta: Giovanni Arpino, Carlo Bernari, Italo Calvino, Enzo Guerra, Carlo Levi, fra gli altri Gianna Manzini, Riccardo Marchi, Giuseppe Marotta, Elsa Morante, Alberto Moravia, Pierpaolo Pasolini e ancora Vasco Partolini, Domenico Rea, Leone Brana stesso, ma anche Leonardo Sciascia, Dante Troisi, Marcello Venturi e Renata Viganò. Gli autori presenti sono 35. Ma vi voglio leggere anche una lettera di risposta di Giovanni Arpino a Dina Rinaldi, dopo che lei appunto le chiese un racconto inedito. Arpino scrive: cara Dina Rinaldi, la lettera del 23 ottobre del 1960, non voglio defezionare e non voglio deludere soprattutto amici come te, manderò il racconto entro la fine di ottobre e io mantengo sempre una puntualità assoluta da quel tangro di piemontese che sono. Però c'è un fatto, il racconto, inedito davvero, è di genere favolistico, un po' fantastico, un po' reale, ma anche irreale. Va bene lo stesso? A me piace molto, ma questo non vuol dire. A mio giudizio è per ragazzi tra i 10 e gli 11 anni, al limite estremo dell'antologia. Tuttavia può anche essere un bene, no? Cominciare con una fiaba moderna. Il 6 ottobre 1960 Dina Rinaldi scrive a Leonardo Sciascia: caro Sciascia, la ringrazio moltissimo del racconto che trovo assai bello, singolare, così ricco della descrizione del mondo contadino meridionale, dove, come nelle leggende antiche, si mescolano la furbizia con l'ignoranza e la crudeltà. Il suo racconto è ottimo e concordo con lei sul fatto che questo pubblico preferisce racconti dove non siano sempre protagonisti ragazzi. Inoltre è vero anche un altro fatto, e questa esperienza me lo ha dimostrato, che gli scrittori possono benissimo scrivere anche per i ragazzi e dare delle cose ottime che contano di più sul piano educativo di molti libri e racconti pedanti, didattici, scritti col solo intento di educare. Dina Rinaldi si pone il problema dell'educazione democratica dei ragazzi del dopoguerra e troviamo che già in un suo articolo pubblicato nella rivista Quaderno dell'Attivista, che era un giornale del Partito Comunista, Dina Rinaldi si preoccupa proprio dell'educazione a cui il Partito Comunista all'epoca, secondo Dina, faceva comunque poca attenzione. Il suo articolo, che si intitola L'attività educativa fra i ragazzi, non ha valore strumentale e lamenta che nell'autunno scorso pubblicammo su queste stesse pagine un articolo nel quale si sollecitavano i compagni ad un dibattito politico e ideologico sul problema che interessa l'educazione democratica dei giovanissimi. Quali argomenti vennero allora posti in discussione? 1. Se l'attività educativa fra i ragazzi deve essere considerata fra i compiti immediati e permanenti del movimento operaio. 2. Quale valore politico e ideale assume questa attività? E tre, quali i compiti, gli obiettivi dei comunisti di fronte a questa questione. Nina Rinaldi si batte perché il giornalino illustrato Il Pioniere continui a vivere, infatti anche quando verrà chiuso continua la pubblicazione sull'Unità e su Noi Donne. Il libro Racconti Nuovi è un'opera ambiziosa, devo dire bellissima, i racconti sono splendidi ed oltre ai racconti ci sono anche delle tavole di artisti contemporanei davvero straordinarie. Conclude la Rinaldi: questo volume, infine, vi permetterà di apprezzare anche alcuni dei migliori pittori contemporanei che, con le loro illustrazioni, hanno permesso di rendere più vivo e ricco il messaggio che vi viene trasmesso. Un messaggio che è soprattutto un incitamento a compiere il vostro primo passo verso una più vasta conoscenza dell'inestimabile contributo che gli scrittori e i pittori danno al progredire di forme ed espressioni più elevate della civiltà umana. Vogliamo Il Pioniere perché nel giornaletto illustrato troviamo, però più in seconda pagina, la rubrica L'angolo di Dina, uno spazio dedicato alle lettere delle piccole lettrici, dei piccoli lettori, a cui la Rinaldi dava le risposte richieste. Sono lettere di giovani poveri, spesso con una bassa educazione scolastica, spessissimo di fanciulli già obbligati al lavoro per contribuire al sostentamento delle loro famiglie. Da queste missive ne esce uno spaccato sulla condizione proletaria degli anni del dopoguerra, con bambini e ragazzi che troppo frequentemente avevano vissuto sulla loro pelle le atrocità della guerra stessa. Una vera e propria pagina di storia altrimenti non scritta. Dalla scelta di alcune di queste lettere, Dina Rinaldi costruisce il suo Il Vallone del Purgatorio, lettere di ragazzi italiani, edito dalla Feltrinelli. Un libro con una raccolta di testimonianze di un'infanzia difficile, ma ricca di profondi sentimenti d'umanità. Sentiamone alcune di queste testimonianze. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. Michele Troncassi, da tempo desideravo scriverti e darti notizie della mia piccola frazione. Io abito a Masiera, frazione del comune di Bagnacavallo. In questa frazione molti sono disoccupati, ma il lavoro è poco perché i proprietari delle terre non vogliono farle lavorare dai disoccupati. Vicino alla mia casa abita un grande signore che ha molti possedimenti e quando gli operai vanno per cercare lavoro, chiama la celere. Per seminare il grano hanno dovuto seminarlo di notte. Parte degli operai zappavano, altri facevano la guardia perché non venisse la celere. Alla mattina tutto era fatto. Il padrone se ne accorse quando era già spuntato. Di questi fatti ne succedono molti e ne vengono anche incarcerati, ma non hanno paura. Luciana Cervi, anni 12. Io vivevo nella mia casa assieme ai miei familiari, quando un brutto giorno si sentì parlare di guerra. Il babbo e gli zii si assentarono sempre più frequentemente da casa. La paura e le preoccupazioni cominciarono ad entrare nella nostra famiglia. Quando la notte del 25 novembre 1941 si udì nel silenzio della notte uno sparo. Erano i fascisti che, dopo aver incendiato la casa, avevano sparato per svegliare il nonno, il babbo e gli zii. Io ricordo che ci portarono via per saccheggiare e rubare. Il 28 dicembre dello stesso anno fucilarono a Reggio Emilia il mio babbo e i miei sei zii. Il nonno fortunatamente riuscì a scappare e la nonna morì circa un anno dopo dal dolore. Eravamo rimasti in 11 bambini, tra cui la maggiore aveva 9 anni e fin da piccoli abbiamo dovuto lavorare perché il governo non dava pensioni giuste per la famiglia. Ancora oggi abito in quella casa. Via Fratelli Cervi, Praticello di Grattattico, Reggio Emilia, 4 agosto 1953. Rodolfo e Amedeo D.T. Siamo due fratelli di origine ebrea e vorremmo dirti una cosa. A scuola alcuni compagni ci scherzano e se accade di litigare con loro ci dicono ebrei. Perché devono offenderci in questo modo? La nostra religione, e noi ci crediamo tanto, è bella e noi siamo come tutti gli altri. Siamo stati da bambini in Francia e la mamma dice che queste cose non accadevano mai. In Italia è diverso e noi non comprendiamo perché. Le religioni non sono tutte da rispettare. DM, anni 10. Ho visto che hai pubblicato la lettera di quel ragazzo ebreo di Roma e mi sono sentita un nodo alla gola. Perché, direi tu? Perché anch'io ho 10 anni, anche se sono cattolica ma mulatta. Il mio papà dice la mamma che era un negro. Le mie compagne di scuola sento che parlano di me con poca gentilezza. Perché? La mia pelle è solo un poco più scura e non nera. Non sono forse uguale a loro e a tutti in tutte le cose? Alla mia mamma, quando ci penso, dico di portarmi al paese del papà. Ma lei dice che non si può e io sento a questo momento tristezza. Non scrivere però la lettera sul giornale perché la mamma può arrabbiarsi parecchio se sa che ti ho scritto di queste cosette. Scrivimi senza parlarne e io riscriverò un'altra volta ancora. Salerno, 3 marzo 1956. Mario Giannini, anni 12. Io ho potuto constatare veramente che il campeggio mi insegna molte cose, prima di tutto la vita del collettivo e in comune. Nei primi giorni era difficile. I grandi stavano poco volentieri con noi più piccoli. Poi pian piano si sono formati gruppi misti per le varietà ed è venuto un reciproco aiuto e fra le due parti si è fatta grande amicizia. Ora i più grandi danno i consigli che per la loro età possono dare e i più piccoli li accettano senza tirar su di spalle e di testa. Un'altra cosa importante che ci insegna il campeggio è il lavoro, che impariamo durante le giornate che stiamo in cucina. Qui ci adattiamo a fare di tutto, dalla spesa a cuocere la carne e i fagioli, a apparecchiare la tavola, a risciacquare i piatti. Abbiamo svolto molte attività, ma per ora si è tralasciata quella che è la parte teatrale, che è della massima importanza, almeno per me. Campeggio Api di Abbadia San Salvatore, 22 luglio 1953. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione,